Il mio obiettivo è mandare in merda la vostra televisione, come cercate di fare con gli altri. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivo! La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Stai esagerando. È bene che qualcuno te lo dica nel coro di quanti tra gli ascoltatori ti leccano il culo, non ho capito perché. Ti devi dare una regolata, ti devi comportare da uomo, non da maschio. Attento al GDT, sai? Popolo della radio, iniziamo così, col sindaco di Alassio. Il sindaco di Alassio, caro Parenzo, tu manco sai di che si sta parlando. Fai parlare me. Enzo Canepa, sindaco di Alassio, di centrodestra, il quale che cosa propone? Dice che un immigrato, non questi profughi che stanno arrivando adesso, qualsiasi immigrato, qualsiasi extracomunitario, non può entrare nella celebre città del muretto, Alassio, Liguria, ascoltatemi bene, senza un certificato medico, cioè dovrà dimostrare di non avere malattie infettive e trasmissibili. Il commento di Salvini. Sono fino a prova contraria presunti profughi, perché poi i profughi in quanto tali sono un quarto di quelli che sbarcano, quindi il sindaco di Alassio ha fatto solo bene, non so neanche di che colore politico sia. Ci sono anche sindaci del PD che ormai ne hanno le scatole piene perché non possono dare soldi ai loro disabili. Precisazione del presidente della Sampdoria Ferrero, il quale all'Ansa dice: io non ho augurato la morte al presidente del Catania Pulvirenti, ma è la cosa che mi aveva detto anche a me al telefono ieri, io l'ho chiaramente spiegata alla radio, al popolo della radio ieri sera. In realtà auguravo la morte al calcio malato, una morte, a me ha detto in realtà, una morte calcistica, non una morte vera e propria, ma questo mi pareva piuttosto evidente, anche perché lo stesso Ferrero, che pure ha usato la parola deve morire, nello stesso discorso si augurava anche la radiazione, dunque se uno muore non è che ha bisogno di essere radiato. La precisazione di Massimo Ferrero Erviperetta. A me mi fanno schifo questa gente, perché non cerchiamo di non sporcare la cosa più bella del mondo. Cioè uno che è rimasto, dice, solo questo, la domenica andiamo allo stadio a vedere questi gladiatori che giocano a pallone, ma non voglio manco sapere, mi fa schifo, guarda. No, mi ma fa ribrezzo. O uno che ha convinto. No, i suoi... non deve proprio buttare la chiave, non deve proprio deve morire infinito, finito, deve morire e proprio la non deve esistere. La vicenda dello stupro di Roma del militare arrestato, lui si dice innocente, non solo, dice che la ragazza di 16 anni è consenziente. Ovviamente le cose vanno verificate, ma si dice sempre così per difendersi, ma comunque noi siamo super garantisti, per carità. Siamo super super garantisti. A parte che anche se fosse stato consenziente, comunque qualche problemino ci sarebbe lo stesso. Comunque vedremo. La cosa che colpisce di più in questa vicenda dello stupro in cui è coinvolto il militare sono i commenti apparsi sui social networks, come si dice, no? Perché ci sono veramente dei commenti incredibili. Che ci faceva in giro a quell'ora della notte? Dove erano quegli sciagurati dei suoi genitori? Ma come si vestono a Prati, ste zozzette, vedrai che mo la minigonna e le tette fuori non le porta più. Questi alcuni dei commenti usciti su Facebook e su altri social networks. Magari c'è qualche pazzo in Italia che pensa che una minigonna o un abito succinto, una tettina di fuori o qualcosa del genere possa stimolare un 31enne o possa stimolare comunque uno stupratore e dunque in qualche modo possa giustificare. Beh, amici miei, se la pensate così fate orrore e fate schifo. intanto per quello che riguarda la politica, Vincenzo De Luca l'ha avuta vinta. Devo dire che i giudici sono molto veloci, Renzi aveva sospeso De Luca il 27 di giugno, oggi è arrivata subito la decisione. Io voglio capire una cosa sulla sospensione della sospensione, cioè c'è stato un decreto di sospensione di De Luca che non può fare il presidente della regione Campania nonostante le elezioni. Successivamente il giudice, in nome del popolo, in nome del popolo sovrano, sospende la sospensione. Questa è l'Italia. L'Italia delle barzellette, l'Italia delle buffonate. A che cosa serve una legge, giusta o sbagliata che sia, come la legge Severino, quando poi basta un giudice qualsiasi per dire no, tu quella roba lì non vale, adesso viene sospesa la sospensione. Ma insomma, se uno è stato condannato in primo grado, come prevede la Severino, va sospeso o non va sospeso? Gli italiani vogliono le cose chiare, non quello che arriva dopo e dice che sospende, poi adesso ci sarà un ricorso e si potrebbe tornare indietro e poi forse ci sarà la sospensiva della sospensiva della sospensiva. Comunque De Luca naturalmente esulta. Nei prossimi mesi arriverà all'Italia l'immagine di una classe dirigente fatta di dignità istituzionale, di concretezza amministrativa e, come dico io, di rigore spartano. Di rigore spartano, rigore spartano. Ma voglio anche ricordare ieri l'islamico che era nostro ospite, che vuole 10 moschee a Milano, 10 moschee a Milano. Ricordiamolo, ricordiamolo, ricordiamolo, 10 moschee a Milano, mentre impazza l'ISIS. In Lombardia ci sono 420.000 musulmani, a Milano ce ne sono 100.000, servirebbero almeno una decina di moschee di media dimensione. Paragone della Meloni: Renzi fa così tanti inchini alla Merkel che nemmeno Schettino. Le battute della Meloni alla Camera. Simbolicamente verrebbe la pena di segnalare che mentre noi parliamo di questo tema nel Parlamento italiano, Renzi, tanto per cambiare, a fare l'inchino alla Merkel, che ormai gliene ha fatti talmente tanti che neanche Schettino è così capace di inchinarsi a una nazione straniera. Siamo qui, 800 24 00 24. È con noi Maurizio Zamparini, presidente del Palermo. Ben ritrovato, Maurizio. Ciao, ciao, come ciao, stai? Bene. Come stai? Bene, bene, sono in clinica per... Come in clinica? Un piccolo intervento, ma domani esco. Ma veramente? Oh, mamma. Che intervento devi fare, scusa? Mi dispiace. L'ho già fatto. Ma sei in convalescenza, cioè sei sul letto d'ospedale? No, sono in piedi, domani vado a casa. Ma sei sempre in ospedale, dici? Sì, ma che hai fatto? Scusa, noi ci interessiamo della tua salute. Che hai fatto? L'appendice, che hai fatto? La prostata. No, avevo un piccolo ematoma da togliere, l'ho tolto. Un piccolo ematoma, cose regolari. Nel pubblico o nel privato sei? Sono in una clinica, è importante. Ma figurati, clinica privata. Ma certo, ti pare che va all'ospedale, Maurizio. Perché? Ospedale pubblico, un ospedale, clinica grande. Oh. Sì, ma clinica... pubblico o privato? Ma privato. Pubblico o privato, tutti e due. Vabbè, è un ospedale. Poi c'è anche la privacy da tutelare. Non è che uno può dire sto... Hai chiesto dove sei operato. Ma è vero, ma ha detto lui. Sapere almeno no. Se è il pubblico o il privato. Ma com'era, scusa, ma che te che era? Un ematoma al culo? Che c'avevi? No. Sì, a fatti miei. Sì, questo è vero, fino adesso. Qualche allenatore che ti ha tirato un calcio, no? Qualcuno licenziato? No. Senti, che le... Mi vogliono tutti bene, lo sanno pagati. Soprattutto per questo. Senti una cosa, ma hai sentito il presidente della Sampdoria che cosa ha detto di Pulvirenti? Poi essere un po'... Ma sai, lui ha un frasario colorito, praticamente da romanaccio, per cui non intendeva esattamente dire quello che è venuto fuori. Insomma, lui quando diceva che dovrebbe morire era non in senso proprio vero, una persona che deve morire, ma come figura che rappresentava queste cose, insomma. Cioè, per cui lo giustifichi un po' con questa uscita? No, non lo giustifico affatto, anche se è stato a pranzo con me settimana scorsa quando ha riscattato Viviani e non lo conoscevo profondamente, abbiamo portato insieme, è una persona intelligente che fa molto bene l'attore, anche alle volte tracima. Vabbè, d'altra parte non è che da te possono venire lezioni di bon ton, diciamo, no? Anche tu ogni tanto... No, tracimo ogni tanto anch'io, ma quando mi fanno tracimare. Poi è sempre colpa degli altri, dai, Mauri, dai. Di questa situazione in cui viviamo, sì, sarà mica colpa mia. Ma io voglio capire una cosa, tu che cosa faresti? Cioè, Pulvirenti l'ha combinata veramente grossa, cioè adesso tu qualcosa devi dire... L'ha combinata molto grossa, c'è la giustizia sportiva. iniziativa della giustizia ordinaria che ci penserà a cosa fare, perché devo farlo io che non sono un giudice. È una cosa naturalmente che mi fa male a vedere queste cose, che come fa male a tutti i tifosi, no? Io ho sentito tanti tifosi anche qui che dicono che sono inorriditi da queste cose. Beh, sono anche contenti, immagino che a Palermo siano anche contenti di quello che succede a Catania, dai, diciamo io la verità. Spero di no. Sì, un sacco di palermitani stanno esultando per quello che succede a Catania, è così, è il gioco del calcio. Forse la risposta di quando noi siamo andati a giocare da loro l'ultimo derby, sì. E loro hanno messo, eravamo quasi in B, e loro hanno messo tutto lo stadio tappezzato di Serie B, ogni spettatore era con una B in mano, non è stato molto carino. Adesso da un certo punto di vista se la meritano questa cosa, no? Vista da un palermitano. No, non se la merita mai, il tifoso non merita mai queste cose. Il tifoso è la cosa più pulita di tutto il calcio. Vabbè, ma siccome perché... ha confessato, da quello che esce fuori, no? Pulvinetti ha confessato di essere... Per almeno ha avuto il coraggio di confessare. Vabbè, questo pure è vero, diciamo che è stato messo sicuramente alle strette, era una situazione... Sicuramente, però insomma... Ci vuole anche un po' di coraggio per questo, e l'ha fatto, e va bene così. No, va bene così, però uno che dice che ha cercato di comprare le partite a 100.000 euro, e io ripeto 100.000 euro mi sembrano anche poche per una partita, ma comunque insomma, ammettiamo che sia così, ha pagato 100.000 euro, ha provato a pagare 100.000 euro per la partita. Uno così va cacciato dal mondo del pallone, anche per questo, sempre. Questo sicuramente, questo prevederà però la giustizia sportiva sicuramente. No, d'accordo, però secondo me... Sicuramente lui verrà radiato dal calcio, così come hanno fatto quella volta con Moggi. Capito? Vabbè, lì tra l'altro non ci fu manco la prova delle partite, tra l'altro. No, lui ha confessato, però verrà sicuramente radiato, che è la cosa più giusta quando succedono queste cose qui. Però non fatemi fare a me il giudice, insomma. No, non ti faccio il giudice, però tu sei di Palermo, c'è un presidente che confessa apertamente di avere provato o comunque di avere cercato e in qualche caso realizzato un trucco. Cioè è proprio l'ABC del calcio, cioè uno così dovrebbe essere mandato via subito, messo ai margini. Deve essere mandato via sicuramente, e lo faranno sicuramente, cioè quello non c'è nessun dubbio, insomma. Ma qualcuno ha mai provato con te? No, tu no, naturalmente. Qualcuno ha mai provato Ma sai, nella storia del calcio, se tu senti anche ex giocatori, ex allenatori, roba del genere, ci sono sempre stati convinti, addirittura ai mondiali, addirittura secondo me nell'ultimo europeo under 21, un biscottino fra il Portogallo e la Svezia. Vabbè, quello sì, però è biscottino. Però sai, i biscottini li hanno sempre fatti un momentino. No, d'accordo, però... I biscottini non sono comprare partite, ma sono qualcosa molto vicino. Ma hanno provato mai nella tua carriera di presidente? Ma sì, qualcuno ha voluto dirmi oggi dammi un punto, io ho detto ti do un calcio in culo, no? Un punto. Ma veramente qualcuno ha detto oggi dammi un punto, un presidente? Sì, ogni tanto succede. Un presidente? Succedeva più una volta. Ma perché non sei andato, per esempio, quando qualcuno ti ha detto questa cosa, tu mi stai dicendo, mi è successo che un presidente mi ha avvicinato e dice oggi dammi un punto. E no, tu... oggi mi ha detto, ma oggi cosa facciamo? Pareggiamo, dai, che va bene per tutti e due. E gli dicevo, non scherzare. Fa parte di un discorso. Ma perché non sei andato a denunciarlo? Ma mica sono un poliziotto. Non c'era bisogno, dici? Ma perché c'era bisogno? Dicevo di no, dire stupidaggini. Che devo denunciare, che cosa? Denunciare una tentata combina. Guarda che si parte da queste cose. Se uno non viene, non subisce subito una zaccagnata, non subisce subito una saraccata, cioè una bella botta. Vabbè, ma uno può dire una cosa, la dice, come fai a provare? Tu dici, guarda che quello mi ha detto questo, che prova c'hai? È una cosa che ti dicono. Registri tutto. E tu gli dici di no, assolutamente, no? Per cui. No, queste cose del calcio. Ma chi è stato? Si può dire? Succedevano ancora di più quando c'erano i due punti e il pareggio. Ma si può dire chi è stato? No, assolutamente. Neanche sotto tortura. Ma non me lo ricordo. Adesso, fra le altre cose, non me lo ricordo neanche. Può darsi più di uno, hai capito? Per cui, sì, no, certo. Ma sono partito dalla C2, alla C1, alla B, alla A, le ho conosciute tutte. Ma anche in Serie A è successo? In Serie A molto molto meno. Però qualche volta è successo. Well, ma non mi ricordo, ma forse qui in Serie A mai. Ma se un tuo giocatore si scopre che scommette, a parte che non può, che cosa fai? Tu lo cacci via? Lo caccio via, sì. Lo cacci via subito, cioè... Caccio via subito, sì, quello lo denuncio subito. Va bene, fermi tutti che c'è il traffico. Tu che fai? Quando vai a dormire ti sogni il traffico. La Zanzara. Intanto oggi Salvini è tornato a parlare di castrazione chimica per gli stupratori. Zamparini che farebbe agli stupratori? La castrazione chimica? Taglierebbe il pisello? Sicuramente subito. Ah, subito? Senza pensarci. Proprio chi stupra ha castrato. su, sicuramente. Ma proprio ma tu nemmeno chimico? Ma sai, quando mio padre emigrò tanti anni fa in Sud America, sì, dove adesso è un paese dove praticamente non puoi neanche andarci, che c'è malavita dilagante. Sì, rapiscono. No, bravo, quella volta un ladro gli tagliavano la mano e mi diceva che potevano lasciare il portafoglio in mezzo alla strada che non lo toccava nessuno. Per cui se tagliassero un paio di piselli probabilmente sparirebbero anche gli stupatori. Ah, dici, alla fine come messaggio, se tagliassero bravo, ma allora bravo. Pure i ladri la mano, allora bisognerebbe farlo anche in Italia. Vabbè, ragazzi, un conto è forse un conto è lo stupro è qualcosa di abominevole. Sì, no, ma su questo non c'è dubbio, però non bastano, tu dici, le leggi che ci sono adesso, ma bisogna dare un segnale da questo punto di vista. Ma sai, dal punto di vista della nostra civiltà la violenza non va mai bene. Però la castrazione chimica, che non è tagliare il pisello ma rendere impotenti, vabbè, ma insomma, Zac e via, no? O no? Sì, no, io su questo sono possibilista anch'io, penso che anch'io che la castrazione veramente chimica... stai dicendo? Sì, sì. Cioè, certo. Veramente stai dicendo, tu pensi che ci vuole la castrazione chimica? Ma per dai, gli stupratori, ragazzi, e per i pedofili, sì, ma io l'ho detto, sì, questo non mi scandalizza per nulla, ma certo. No, penso ma sia la castrazione una chimica non l'hai mai detto, dai, non l'hai mai sostenuta questa cosa. No, adesso penso che invece sia una cosa. Cioè, la castrazione chimica. Perché indubbiamente sono malati. Ma non diciamo stupidaggini. Sono malati, e in quanto malati è una cosa sicuramente. E tiri via il coltello, è come se uno c'ha un coltello che è un assassino. In alcuni paesi lo fanno. In alcuni paesi lo fanno. Ah, tu dici anzi, ci sono anche alcuni pedofili. L'arma degli stupratori è il sesso che hanno, no? Sicuramente. Glielo togli via e non fanno più un cazzo. Se un assassino gli dà il coltello, ammazza ancora. Glielo togli e non ammazza nessuno. Beh, insomma, ma ci sono alcuni che lo chiedono anche, alcuni pedofili, sì, addirittura, sì, che dicono non riesco a smettere, sono malato... Fatelo, in alcuni paesi anche civili lo fanno. Senti, ma perché non accogli qualche, nelle tue immense proprietà, qualche profugo, qualche immigrato? Perché mi fai questa domanda qui? No, così, che ne so, come gesto prima di... Prima di raccogliere i profughi obbligati, c'ho da dare da lavoro a tanti italiani che mi bussano alla porta tutte le mattine per dire sono senza lavoro, c'ho la famiglia da mantenere. Cioè, prima gli italiani. Poi, naturalmente, no, è prima la nostra gente. E poi, naturalmente, c'è il problema degli immigrati, che non è un problema personale, è un problema che va naturalmente organizzato in maniera molto diversa da quello che stanno facendo adesso dallo Stato e naturalmente dall'Europa. Questa Europa deve servire a qualcosa. Ma tu fossi in Grecia, cosa voteresti se fossi in Grecia al referendum? Grecia direi fuori dall'Europa domani mattina. Subito. Domani mattina, tu usciresti dall'euro domani mattina. L'unica nazione che va benissimo è l'Islanda, che è uscita dall'Europa, ha battuto la moneta. E c'è un'economia fiorente. Ma tu sei un imprenditore, non puoi dire che con l'euro e senza euro staremo meglio, dai. Ma con senza euro noi, abbattendo la nostra moneta, diventeremo sovrani, diventeremo senza debito e diventeremo una delle nazioni più ricche d'Europa. Ma io, se fossi io, metterei il filo spinato sulle Alpi. Dio ci ha dato le Alpi per dividerci da quelli del nord, e invece il nostro regno è il Mediterraneo. Ma come il filo spinato? Metteresti davvero il filo spinato? Il filo spinato, sì. E invece noi abbiamo il nostro regno, dove noi siamo leader, è il Mediterraneo. I tedeschi che vanno per conto loro, con gli inglesi, con gli altri che vanno per conto loro. Certo. Amici, però per conto loro. Metteresti loro il filo spinato sulle Alpi? Sì, e pagherebbero per venire nel nostro magnifico paese una tassa molto grossa per venire qui a fare i turisti. Tassa per gli stranieri che vengono dalla Germania, dall'Austria? Sicuramente. Ma dai, su, Maurizio, ma è una cosa irrealistica. Questa è una follia alla Zampini. Cioè, la metà del nostro valore con l'euro immediatamente. Senti, ma il Palermo lo vuoi vendere alla fine? Dice che l'ultima, ogni anno ripeti la stessa storia, l'ultima. Spero di sì, data la mia età, spero di sì. Ma dunque, confermi, quest'anno è l'ultimo anno, come al solito, la solita... Sì, però sai, lo confermo, però bisogna trovare chi lo prende. Oh. E chi lo prende deve essere una persona all'altezza di fare il Palermo. Ma quello è complicato, sempre, tu lo sai. Livello. Tu... No, lo trovo, non ti preoccupare. Ma dove? No. In che nazione? Adesso dove stiamo? Lo trovo, spero. Prima eravamo in Messico. Ho capito, ma quanto vale in tutto? Tu quanto lo vendi? La cifra, voglio capire. Non è una cifra alta. Io in un certo momento, più che la cifra alta, mi interessa che la persona possa far bene a Palermo. Posso rimanere dentro anche con una minoranza, non mi interessa niente. È un passaggio di mano che voglio fare, uno più giovane di me. Ma uno a Palermo ha paura a investire, lo sai, la mafia, le cose, la gente. Ma non c'è molto da investire. Palermo è una società sanissima. No, non ma Palermo è una... la gente. E col bilancio che ha, io quest'anno. No, ma uno straniero. C'ha un budget che alla fine dell'anno. Ma non dico la società, non dico la società, dico l'ambiente, eccetera. È difficile pensare di investire a Palermo, di mettere dei soldi, no? Ma non c'è da investire a Palermo, non c'è da investire. Ah no, ma è tutto un casino. La società è una società che va benissimo, ha il pareggio in bilancio. Ma quanto vale? 50 milioni vale? Quanto vale? Ma circa. circa 50, cioè se qualcuno... io ne ho messi il doppio da quando sono dentro, ma quello lo so, 100, vabbè, ma quello vabbè, tu sei fatto così, continua ma... a metterli, ma se qualcuno se no, non ne metto più. Il Palermo c'ha un bilancio autonomo e ce la fa da solo. Non metti più un euro, basta. No, assolutamente non ce n'è che metti l'euro nel calcio, non ce n'è. In che senso? Non ce n'è, nel senso che una società deve fare col proprio bilancio. Palermo ha un bilancio, penso, di 55 milioni, la Juventus ce n'ha di 300, non dice ne frega, noi andiamo alla pari con i nostri 55. Ma dove vuoi arrivare l'anno prossimo col Palermo? In UEFA. Sì, vabbè. Tutti. Vabbè, facciamo una scommessa. Facciamo la scommessa, dai. Allora, okay. La scommessa è qui, arrivi in Coppa UEFA, arrivi in Europa. Esatto. Vabbè, ciao Maurizio, a presto, ciao. Okay, ragazzi, ci sentiamo. Dopo il GR, 800-24-00-24, tante cose di cui parlare, tantissime. Amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Radio 24 è al padiglione Cibus Italia a Expo Milano per una settimana con una programmazione da non perdere. Ti aspettiamo dal 29 giugno al 5 luglio con dirette e programmi speciali al padiglione Cibus Italia, dedicato alle eccellenze dell'agroindustria italiana e ai protagonisti del Made in Italy. Info su radio24.it. In collaborazione con Federalimentare e con il gruppo Cariparma Crédit Agricole. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. La Zanzara. I mostri, a me piacciono i mostri, io voglio Borghezio, io voglio tutti i mostri, può guardare anche Peppe Fetish, tutti i mostri possibili e immaginabili devono passare da qui. Guarda che c'è gente strana in giro. Vicenda Berlusconi, il popolo della radio spunta fuori l'ex di Rubi Rubacuori, che si chiama Luca Risso, che dice che Rubi fu pagata per non testimoniare ed era addirittura pericoloso dare biglietti da 500. Ragazzi, se questa lettera dovesse comunque essere considerata decisiva, certo, so cazzi. Non c'è nulla da dire. Allora, andiamo a Roma da Amalia. Cruciani, buonasera. Dica Amalia. C'è qualcuno che mi chiama al telefono. Sulla Cassazione. Eccomi qua. Intervengo sulla Cassazione Chimica. Sono una donna di 48 anni, vivo a Roma. E devo dire che sono pienamente d'accordo sulla castrazione chimica. Io non so che cosa sia saltato in testa al tipo dell'altra sera. Fatto sta che è socialmente pericoloso, quindi deve essere, come dire, riconoscibile, quindi va bene anche il bracciale. E poi non ho capito, Maria, lei è d'accordo sì, con che cosa? Con la castrazione chimica nei confronti degli stupratori? Sì, io voglio dire una cosa, per me va benissimo tutto, cioè Parenza adesso si è convertito alla castrazione chimica. No, non mi sono convertito, ho letto una cosa incredibile. Tu faresti una puntura per rendere sterili le persone, addirittura come Zamprini che dice di tagliare il pisello, ma ragazzi, le modalità quello assolutamente no, quello non è, ma è uguale, o gli fai una sigla, gli tagli il pisello, la stessa cosa. Ma amica, fanno questo. Voglio dire, è un reato stupratore. Beh, allora, ma questa è una malattia che va curata, e una puntura malattia, non è certo. Abbiamo scoperto che Parenza è a favore delle punture, sì, che castrano le persone. Vabbè, sì, va bene, per pedofilia è condannato per pedofilia e per stupri. Luciani, stavo parlando con una collaboratrice. Vabbè, allora. Che mi dice che in Romania è passata la legge. Ma chi se ne frega di quello che fanno in Romania? Ma io se ne frega? Ah, è passata la legge sulla castrazione. Va bene, male, arrivederci. Carlo da Milano, dai, Carlo. Sì, buonasera, Cruciani. Dimmi. Buonasera. Prima di tutto voglio farvi complimenti per la vostra bellissima trasmissione. No, non ce ne frega niente dei complimenti, parla, dai. Ok. Niente, io sono al contrario, come diceva la signora. Sì, ma abbassa prima. La radio, abbassa la radio, chiudi la radio per favore, dai. Scusami. Che cazzo? Niente, dai. Deve fare. Ma che castrazione chimica, quella gente qua. Sa cosa succede? Succede che poi alla fine non gli faranno niente. A chi? A questo qua che ha violentato. Ma non è vero, ma non è così, ma non è così. Ma sa perché? Perché con le leggi che abbiamo qua in Italia, alla fine lo passano per matto, no? Lo cominciano a far vedere. Ma non lo passano per matto per niente, ma ragazzi, ma non è vero, probabilmente prendono anche poco quando vanno in galera, non c'è dubbio, questo non lo so, può darsi. Ma questo non c'entra assolutamente nulla. L'Italia, ragazzi. Allora che va fatto? Non ho capito, Carlo, che cosa va fatto? No, va fatto, io la penso così. Cioè? Vanno ammazzati? Bisogna fare le leggi giuste. Vabbè, manca d'accordo, ma con le leggi giuste è banale. Questo ci siamo. Che cosa va fatto con questi stupratori? Allora, non voglio essere volgare, ma prese il calcio nel culo forte, però, guarda. Ma calci nel culo forte, che vuol dire calci nel culo vuol forte? Vuol dire che questi non sono malati, secondo me. Questi qua sono pervertiti. E allora? Allora, niente, bisogna sbatterli in galera e fargli come posso dire niente, lasciali dentro 30-40 anni. Vabbè, Ernesto da Caserta, vai. Pronto, sì, Ernesto, buonasera. Vai, dimmi. Pronto, buonasera. Parla però, amico mio, dai. Scusami, dammi il tempo. Allora, dammi il tempo. Volevo dire, sì. Io non direi tanto di fare questo e quell'altro. Io incomincerei un po' a guardare un po' l'ambiente familiare. Perché quale? Ragazze, ambiente familiare di che? L'ambiente familiare delle ragazze dai 15, 16, 17 e quant'altro. Cioè in che sì, senso l'ambiente familiare di 15, 16, 17 anni? Sì, perché a uno certo orario dovrebbero stare a casa, dovrebbero comportare bene sulla strada. Oggi Parenzo sta solo sbuffare. Sto facendolo parlare perché altrimenti uno lo chiude subito, sì, lo manda a quel paese. No, uno se così, non vuoi chiudere, chiudi. Ma dai, ma come si fa a dire sto sbuffare? No, ma sì, se uno dice le condanno, famiglie di tenere a casa le ragazze, ma questo è matto. Mi devi finire di parlare. Io condanno il militare. No. Sì, vabbè, quello è scontato. Condanno il militare. Però? Perché è una prassi che bisogna fare. Però qual è la prassi che bisogna fare? È una prassi, sì, sì. Allora, ma qual è la prassi? Bisogna, non ho capito. La prassi che ha sbagliato deve pagare, punto. Deve pagare. Ma che sì, c'entra la famiglia delle ragazzine? Bisogna controllare queste ragazzine. Ma cosa tieni vuol presente, dire? Tieni presente a Roma che cosa è successo? Che si prostituivano queste ragazzine. Non so se ti ricordi. Vabbè, ma non c'entra nulla col fatto di cui stiamo parlando. Ma la prostituzione minorile. No, ma Ernesto, stai calmo. La prostituzione di due ragazzine. No, ma stai calmo un attimo. La prostituzione di due ragazzine di 17. Oh, mi stai zitto un attimo? No, stai zitto un secondo. Sì, no, sto zitto. Allora, stai zitto un attimo. La prostituzione di due ragazzine di 16-17 anni. Ma stai tranquillo, per quanto orribile, è una cosa un po' diversa dal fatto che uno viene preso. Per quanto possa essere una cosa disdicevole. Bisogna controllare questa ragazza in mezzo alla strada. Ma come bisogna controllare? Bisogna controllare quello che stupra. Ma in che senso? Perché l'atti. Perché l'ha attirato, dici? Io ho capito che ci stanno i malati mentali che bisogna condannarle, a parte pure che hanno un servizio militare, assolutamente da condannare, però bisogna controllare queste ragazzine. Cioè, secondo te possono, hanno alcuni atteggiamenti che possono attirare? Bravo, assolutamente sì. Ma sei un coglione, sei un coglione totale. Non stai sulla strada, bisogna. Ma che vuol dire non stai sulla strada? Non ho capito. Perché anche se a 16 anni vanno con i panni. Ma non bisogna controllare, bisogna controllare il tuo cervello. Non ci trovi niente. Fanno quanto altro sulla strada questi ragazzi. Dai, ma che fanno sulla strada per attirare la gente? Che fanno le ragazzine? Che fanno le ragazzine? Che fanno? Bisogna domandare, essere tranquilli, perché la gente ha paura di parlare. Quando si parla di queste ragazze minorenne, ma cosa sta dicendo? Che la gente dietro. No, ma non ho capito bene, non ho capito bene. Non ho capito. Sì, allora ti faccio capire. Io guarda, sono sulla strada, vedo tantissime cose e bisognerebbe denunciare questa cosa. Cioè, che cosa bisognerebbe denunciare? Ma da là la Z, io non ti voglio. Ma dire cosa là, bisogna denunciare, Ernesto? Attenzione. Le ragazzine che vanno con i pantaloncini corti? Le ragazzine che vanno che vanno con le tette di fuori? Che cosa? No, vogliamo. Allora ci vogliamo chiudere gli occhi. Va bene. No, ma dimmi che cos'è che bisogna denunciare? Dimmi che cos'è che. No, ma io bisognerebbe. Ma io guarda, non ho. No, io prima ti ho chiesto una cosa. Molte ragazzine, sì, secondo te, attirano con il loro comportamento? No, col pantaloncino, non è che siamo agli anni 60, attenzione. Vabbè, Ernesto, c'hai Corrado, 60. Provincia di Pescara, dai. Sei stato chiarissimo prima, adesso devi stare tirando un po' indietro perché te la fai sotto per le cazzate che hai detto. Dai, Corrado, togli la radio, per favore, dai. No, no, ce l'ho tolta, sono arrabbiato con te, Giuseppe, mi ascolti? Sì, sì, ti ascolto, dimmi. Ma scusami, tu quando mi parli di sospensione, della sospensione in Italia, cioè tu le cose le sai, le devi anche dire. In che senso? Scusa, perché spiegami. Ti fa schifo vivere in uno stato di diritto? Ma cosa vuol dire? Io non ho detto questo, io non ho detto che mi fa schifo vivere in uno stato di diritto. Dico semplicemente che in Italia non c'è chiarezza di nulla. Se c'è una legge, magari è stata fatta male, ci saranno i ricorsi, eccetera, eccetera. Una legge fortemente voluta dal centro-sinistra insieme al centro-destra, che prevede il fatto che, secondo me sbagliando, chi è condannato in primo grado per alcuni reati sia, come dire, sospeso dalla carica. Adesso si è trovata una scappatoia, perché quello è un sindaco e non è un parlamentare, eccetera, eccetera, e altre cose ancora che non sto qui a specificarvi. La realtà è che non c'è nulla di certo in Italia. La cosa evidente e certa era che De Luca era incompatibile con quella carica. Dopodiché si è voluto candidare lo stesso. Adesso c'è la sospensione, è intervenuto un tribunale, ma è un paese normale secondo te? C'è un investitore straniero che deve investire per esempio in Campania. Cioè, può avere, dice, con chi devo parlare? Non lo so, dipende dal TAR, dipende dal Consiglio di Stato, dipende dalla giustizia. Dalle leggi, ma è certo. Normale, no? È normale che sia così. Corrado? No, è normale, secondo me, poi per carità, è anche cosa? Bello dimmi, che cambiare cosa? Opinioni con persone che non la vabbè, pensano. Allora? È normale che ci sia la certezza del diritto, ma ci sia anche la tutela del cittadino. Ma qui non c'è nessuna certezza, c'è la follia del diritto. Dov'è la certezza? È la follia e no, basta. Ma la certezza è che non era incandidabile. Sì, ma certo lui che non era incandidabile, ho capito, ma non stiamo andando. Ma non andiamo, l'abbiamo già detto mille volte, non è quello il punto. È che in alcuni casi prevale la sinistra. Allora, ragazzi, vogliamo dirla chiara. Allora, ci sono due casi clamorosi. De Luca che sostiene apertamente che il voto del popolo vale più della Severino, e questa è una cosa. E la seconda cosa è il sindaco di Bari Emiliano, cui voglio molto bene, che però per ragioni di opportunità non doveva assumere anche alla regione la sua fidanzata. Sono come portavoce, però. No, ma sono. Ma cioè, se le avesse fatti qualcun altro di centrodestra, se li sarebbero magnati questi qua. Ma sono due casi. La diversità diversi, della sinistra non esiste però. Più. Ma che c'è l'amico Emiliano, sinistra? Cui voglio bene, doveva rinunciare alla regione, dopo essere stata la sua portavoce anche al comune, doveva rinunciare ad assumere la fidanzata. Che è la sua no, portavoce. Però scusa, va detta tutta. La attuale attimo, fidanzata c'è del governatore della Puglia. Dopo. Questo è un mondo dei cialtroni, Todice Ferrero. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Luciani, mi permette una battuta, di lei non ho molta considerazione. Ah, questo qua è Franco Ziliani, che continua a dire di avere mandato una richiesta di intervista, non so su che cosa, sul vino, alla mia mail che era bloccata, non so. Senti Ziliani, calma, stai tranquillo e calmo. Ziliani, il grande conservatore. Questa è informazione? Cruciani, questa è informazione? Ma che me lo dici tu a me che cos'è informazione o no? Azilia, dai. La presunta, fino adesso, stuprata di 16 anni a Roma, dice: ho chiuso gli occhi e ho sperato che finisse il prima possibile. Il militare nega, addirittura dice che lei è consenziente. Poi intervengono i pazzi qui alla Zanzara, e non solo alla Zanzara, anche su Facebook, che sostengono che insomma la ragazza, se si veste un po', no, succinta, sì, se si mette un po' provocante. Nuda, provocante, può attirare anzi a qualche responsabilità. Però su questo ha ragione Umberto Eco. vi piace un mondo così? Ma guarda che non c'è bisogno, cagare un mondo così, cioè, un mondo così fa cagare. L'imbecillità, l'imbecille, se si può definire tale, non è che si c'è solo su web sulla rete. Ma è semplicemente che si vede, è semplicemente che si vede. Beh, sì, appunto, si vede, volta basta. Uno teneva queste cose, ma è uguale, o le diceva magari al ma bar, è meglio che escano fuori, è meglio che escano fuori, ma è meglio che escano fuori. Capisco che nel tuo mondo di snob, nel tuo mondo di, nel tuo mondo non è, non è previsto l'incontro con la, io, con la, con la merda, ma purtroppo la merda esiste. Beh, diciamo che mi dispiace, è così. Lavarmi, ho capito, ma lavarsi è una cosa, però ogni tanto scansarla, bisogna anche pestarla. Beh, sì, basta, non sempre. Questi la pestano in continuazione, insomma. No, la pestano, sono loro la merda. Certo. Ho capito. Alessandro da Torino, ma bisogna incontrarla ogni tanto, bisogna pestarla per rendersene conto. Alessandro da Torino, se uno vive nel suo mondo dorato, non si rende conto di che cosa è la merda. Ma io in generale ho detto, a me fa semplicemente, non mi sto riferendo a te, che qualunque idiota possa. Ma invece è la libertà, è la libertà, è la libertà. Non si chiude niente, infatti non è che questo è importante, almeno questo. Alessandro da Torino. Alle volte alcuni comportamenti vanno sanzionati, però. Volevo solo dire una cosa molto veloce, molto sanzioni, banale. Sanzioni, Alessandro, vai. Dire. No, ma va bene, continua a dire sanzioni, Alessandro, Torino, applicare vai. La legge, certo. Sì, applicare la legge, sanzioni, tribunali, Alessandro, Torino, vai. Ciao, scusa, volevo solo dire una roba molto, molto banale, forse. Allora, tralasciando il fatto che ovviamente condanniamo la violenza, tutto quello che vogliamo, anzi, io dico, rendiamo illegali gli abiti casti, così almeno c'è qualcosa da vedere in giro. No, volevo solo dire, io almeno voglio però l'onestà intellettuale della serie. Se lascio aperta la finestra di casa, mi entrano in casa e mi aggrediscono, io ho la consapevolezza che le mie probabilità di essere aggredito lasciando la finestra aperta aumentano. E voglio l'onestà intellettuale della persona che mi dica, ma non sei un coglione perché hai lasciato la finestra aperta. Ma non è la stessa cosa, Alessandro, di che stai parlando? Qual è il paragone? Spiegami qual è il paragone, che non ho capito bene. Il paragone è solamente il dire, io condanno ogni forma di criminalità, io so che una cosa è criminale. Allora, vabbè, ma questo qua, ma d'accordo, anche lasciare eh? La finestra aperta e avere i ladri in casa, ma non vuol dire nulla, anche se voglio capire il paragone qual è, cioè se tu ti spogli per strada, cioè se tu vai mezza nuda per strada, allora se uno ti stupra però un po' te la sei voluta, questo vuoi dire? Non lo so questo. E allora di che vuoi dire? Non ho capito. Aspettami, a parte che non è vero, perché spesso le donne stuprate sono vestitissime, cioè non è una questione di abiti, non è che ti prende il matto perché vedono la minigonna, ma mi rubano anche la macchina. Ma sì, ma ti prende il matto perché sei un pazzo, perché sei un criminale, perché sei malato, perché sei uno stupratore, perché sei un delinquente. Non è che se vedono una tetta di fuori uno ti stupra. Lo stupratore stupra a prescindere dalla tetta di fuori. Cioè, siamo assolutamente d'accordo, come un ladro ti entra in allora, casa. E allora qual è il tuo paragone? Non ho capito qual è il tuo paragone. Il paragone è il fatto che se mi entrano in casa con la finestra aperta o mi rubano la macchina perché l'ho lasciata aperta, io sono il picciu perché l'ha lasciata aperta. E allora va bene, d'accordo, però tu resti sempre alla macchina. Vai a parlare dello stupro, non fare il furbo, dai. Se io arrivo e dico ho minigonne e quant'altro e ho abiti che possono aumentare la probabilità di il fatto che sia un atto criminale, è comunque un atto criminale, questo è un dato di fatto. È inutile che lo ripeti per giustificare la cazzata che stai dicendo, cioè non aumentano le probabilità, non aumentano, ma ti assicuro che non è così, non aumentano, magari aumentano le possibilità di essere molestato da qualche coglione in giro, su questo non c'è dubbio, però la colpa è sempre del coglione in giro, non è di chi va in giro con la minigonna o chi va in giro con senza reggiseno, cose di... basta, non c'è altra discussione, perché per fortuna da noi c'è la libertà di andare in giro, e se vai in giro con le tette di fuori ti sanzionano per oscenità, magari, cioè, ma non c'è, ma non è che c'è l'induzione allo stupro, capito? Non so come dirti, non esiste, basta, ma non c'è un altro discorso da fare, fine, chiusa la discussione. Cioè non è che se tu dici uno deve essere consapevole e andare in giro in maniera più casta, questo vuoi dire, Alessandro? No, voglio essere... Beh, allora che cosa vuoi dire, scusa? Voglio dire che se uno è consapevole del fatto che se va in giro in un certo modo corre più probabilità di essere trattato in una certa determinata maniera. Punto. Basta. Bah. Esattamente alla stessa identica maniera in cui se lascio la macchina aperta per strada ho più probabilità che me la freghino. Non è la stessa cosa, comunque, va bene. Silvio da Venezia, vabbè, ma comunque è un paragone che ha fatto con tutte le riserve del caso, dicendo sono contrario alla violenza. Però io sono resto convinto che, come dire, a parte che lasciare la macchina dovrebbe essere un segno di civiltà senza chiuderla, secondo me. Nei paesi civili si dovrebbe poter lasciare la macchina senza chiuderla. Silvio Venezia, vai. Sì, buonasera, sono a Venezia ma sono di Milano. È uguale. Volevo dirle questo. Per noi è uguale, non è che siamo interessati alla... potremmo anche essere interessati, questo. Dipende. Il discorso che avete fatto sulla castrazione chimica, secondo me, deriva dal fatto che siamo in un paese dove non esiste la certezza della pena. quindi la gente, anche magari le persone che sono più ma garantite, non è che, ma non è che no, non è legato a questo, ma non è che fatto che uno stupratore sì, secondo me è un malato fine, però lo stupratore se stesse in galera 15 anni nessuno gli direbbe niente. Il problema è che in Italia casomai ci sta 3, poi dopo esce, va nei centri, va da qualche altra parte e la pena non ce l'ha. E poi la cosa più importante, io ho una figlia di 17 anni e lavoro tutta la settimana fuori, quindi rientro magari il venerdì sera, anche alle 9 di sera, però mi organizzo con i genitori delle altre sue amiche piuttosto che io stesso, e anche all'una, alle 2 del mattino, dovunque loro siano, le andiamo a prendere. Cioè, che vuol dire con questo? Non ho capito. Che secondo me una ragazza, comunque una minorenne, non dovrebbe girare da sola, che sia vestita, che sia nuda o che sia in... Sì, ma questo è un altro problema adesso, cioè il fatto che questa ragazza fosse da sola a non so quanti anni non è il punto. Cioè, perché altrimenti dobbiamo pensare ad una specie di società militarizzata. Non è così. Cioè, può darsi pure che no, sarebbe stato meglio se, questo si dice sempre dopo, no? Però io il pensiero che una ragazza di 16 anni possa essere, come dire, debba essere per forza accompagnata da necessariamente accompagnata da qualcuno di notte in una città, è una follia. Cioè, comunque sposta l'attenzione sul problema vero, che è lo stupro. Non c'entra niente che questa era da sola, doveva essere con le amiche, la colpa dei genitori, chiaro? No, non dico che sia colpa dei genitori, però comunque sia la vigilanza dei genitori è fondamentale. Ma quello stiamo dicendo delle banalità, è normale. Bam. Quando la gente la chiama e le dice che è colpa sua perché andava in giro discinta o perché andava in giro da sola, la vigilanza nostra comunque sta anche in quello, sta nel cercare comunque sia il più possibile di stargli dietro. Perché non stiamo dicendo delle cose, poi ognuno si assume le sue responsabilità come genitore, dai, Gianmaria D'Asti, è chiaro che dobbiamo stare dietro ai ragazzi di 16 anni, capire dove vanno a mezzanotte, capire se escono e con chi escono, da soli no. Ma ragazzi, ma sono cose talmente scontate che non c'è manco bisogno di dirlo. Il vero problema è lo stupro, non è perché quella stava da sola, Gianmaria. Eccomi, sì, è proprio quello il problema. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Io sono vittima di uno stupro. In che senso? Sono stato stuprato quando ero un bambino. Da chi? Da un mio cugino. Da un tuo cugino? Sì, quindi in casa, quindi da una persona di cui in teoria si poteva fidare benissimo, immaginate... Ma quanti anni, se mi posso permettere? Sì, io avrò avuto, questo mi ha provocato diverse cose, tra cui difficoltà a ricordare, temporizzare le cose, quindi avrò avuto tra i 10 e i 12 anni indicativamente. Sì. E niente, quindi credo di poter dire con cognizione di causa cosa si merita chi stupra e cosa si merita chi pensa che chi viene stuprato è perché ha istigato in qualsiasi maniera, dai vestiti ai comportamenti, alla simpatia, al permesso di fare questo o quell'altro. Cosa merita secondo te? Ma guarda, a parte castrazioni, pena adeguata, eccetera, io quello che posso dire personalmente, io da allora vivo in un buco nero, per cui mi piacerebbe tanto che queste persone, questa persona e queste persone venissero chiuse in una stanza completamente al buio, dove ci fosse qualcuno che con adeguati mezzi tecnologici riesca a vedere cosa fa lui, ma chi ha stuprato non vede cosa gli succede attorno, gli possa fare tutto quello che si merita. Cioè, perché che cosa? Io... Scusa, non ho capito bene. Che cosa dovrebbe fare questo signore? Cosa dovrebbero fare? Chiuderlo in una stanza? Dove lui non può vedere cosa si fanno, quindi non sa se lo picchieranno, lo stupreranno... bruceranno le orecchie o gli strapperanno le unghie, lui non sa assolutamente cosa gli capita intorno. Non deve sapere cosa gli capita intorno. C'è il terrore di quello che può accadere. Esatto. E poi? Comunque... poi sembra quasi una vendetta, diciamo, no? No, sicuramente. Io purtroppo, forse troppo tardi, poi sono riuscito a tirare fuori quello che era successo e io credo, senza ombra di dubbio, che se non mi avessero tenuto probabilmente sarei riuscito ad arrivare addirittura ad ammazzarla questa persona. Quindi. Ma quando questo? Due o tre anni fa. Cioè due anni fa lo volevi ammazzare? Sì. Ma in che modo, scusa? Ovviamente a mani nude, perché tutto è scaturito dal fatto che ha fatto un commento sui miei figli. Che ma scusa, ma questo qua non ha pagato? No, non ha pagato perché io per anni non ho detto niente. Quando ho detto era per tutti caduto in prescrizione, poi era comunque poveretto lui, no? Che aveva dei problemi, poveretto, quindi no, non ha assolutamente pagato onestamente il mio dirlo è stato dirlo, che ne so, ai miei genitori, a mia sorella, alle persone che mi vanno bene, quindi non c'è stata una denuncia, non c'è stato nulla, anche perché a distanza di 20 anni diventava difficile. Secondo me. Comunque, secondo te ci vuole la vendetta nei confronti di queste persone, cioè ci vogliono le maniere forti. Sì, cioè castrazione, che ne so, e poi che cosa? Botte? Sì, cioè... ma non castrazione chimica, perché la castrazione chimica... Cioè che cosa? Tagliare il pisello direttamente? Non fa male, la castrazione vera, a freddo, senza anestesia, senza nulla. A freddo. E vabbè, cos'altro ancora nei confronti di questi qua? Cioè, terrorizzarli? Secondo me è il terrore, perché comunque... Ma poi... scusa, ma non sarebbe allora... Scusa, uno dovrebbe andare fino in fondo a questo ragionamento e dire, vabbè, vanno ammazzati, punto e basta. E no, perché... No, devono avere paura, devono ricordarsi, esatto, per tutta la vita. Io in linea generale scontro la pena di morte, perché in certi casi... Meno male. Devono ricordarsi per tutta la vita, tu dici? Esatto, come io mi ricordo e mi ricorderò e pago le conseguenze, purtroppo. Ma che tipo di scusa se mi permetto, che tipo di stupro è stato nei tuoi confronti, Gian Maria? C'è uno stupro pesante, c'è uno stupro continuato? Sì. No. Pesante, c'è uno stupro vero e proprio, non solo molestia, cioè uno stupro vero, cioè. Vero e proprio, al 100% vero e proprio. Va bene, grazie, ciao. Grazie ciao, a voi, un ciao, abbraccio. Ciao. Ma tu, a uno come Pulvirenti, che dice che pare che abbia confessato di essersi comprato le partite a 100.000 euro, ma che faresti? Butteresti la chiave? Che faresti? Nella vita bisogna essere seri. Questo signore io non lo conosco, però questo signore deve essere radiato dal calcio, perché il calcio è sport. Certo. Il calcio stiamo cercando di fare... di portare le famiglie, di vedere, ti diverti, emozione. E come cazzo si permette questo a fare queste cose? Deve essere radiato. Il punto è questo, ragazzi, ma uno che per salvarsi e poi non fine... esiste, deve morire, non si deve salvare più nessuno, perché come si permette, questo dovrebbe prendere tutti i giorni schiaffi. Devono fare delle regole. Che questa roba non deve esistere, perché deve essere radiato lui, il campo, la squadra, tutti, perché non è possibile, c'ha ragione. E non si tratta di soldi qui, si tratta proprio di essere della gentaccia. Abbiamo ascoltato qualche minuto fa la drammatica testimonianza di Gian Maria D'Asti, un ascoltatore che ci ha chiamato dicendo che è stato stuprato a 10-12 anni dal cugino e che secondo lui andrebbe quasi torturato uno stupratore, almeno io così ho capito, rinchiuso in una stanza, torturato psicologicamente e fisicamente, va anche castrato a freddo senza la castrazione chimica e la sofferenza deve durare tutta la vita. Giovanni da Roma, vai! Ciao Cruciani, dimmi. Vorrei riportarti su un argomento su cui tu sei molto ferrato, parliamo di omosessualità. Io ho una domanda tecnica che non riesco a spiegarmi e forse tu mi puoi dare un aiuto. Tu hai fratelli, amici che sono omosessuali? Fratelli e sorelle no, ma non ci sarebbe niente di strano, ma... Tu. No, io non ho mai detto di avere un fratello o una sorella omosessuale, scusami. No, hai detto che sono tuoi fratelli e tue sorelle. Ma in questo senso sono fratelli, sorelle, cioè sono amici. È un modo di dire, appartengo anch'io alla grande comunità transessuale, alla grande comunità gay, alla grande comunità lesbica, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Ti dà fastidio? Ti dà fastidio questa cosa? No, è una domanda tecnica che ti voglio fare. Ma qual è sta domanda tecnica? Non ho ancora capito sta domanda tecnica. Allora ti dico, noi normali eterosessuali, normali quando è una cosa, normali è una cosa, eterosessuali è un'altra. Anche comunque noi siamo normali. No, ma chi ha detto? Io mi considero semplicemente eterosessuale se uno me lo chiede, altrimenti mi considero un essere umano, punto. Che poi sono che poi io sia eterosessuale, omosessuale. Essere... Comunque, vabbè, certamente non mi definisco né normale né anormale. Vabbè, normale e eterosessuale, sì, esatto. Eterosessuale, ok? Quando abbiamo le emorroidi, trombiamolo allo stesso modo. Ma mi vuoi tu vuoi spiegare? No, non ho capito una cosa bene. Quando tu hai le emorroidi, quando tu hai le emorroidi? Io trombo normalmente, no? Con la mia donna, io trombo. Con la tua donna, quando hai le emorroidi, tu trombi normalmente. Sì. Qua, alla fine. Ma stai tranquillo, ecco, fai seguire il ragionamento. Ma, sì, dai, ragionamento. Ecco. Ma allora, gli omosessuali, sì, quando hanno le gioca con le persone, come cacchio fanno? Cioè, dice la porcheria. Sì, no? Sì, vabbè, si gioca pure con queste cose, vai. Sì, ma lui non mi sembra che stia dicendo. Ma aspetta, io vorrei una risposta a questo. Allora, Giovanni, non ho capito, spiegami. Non ho capito, tu sei eterosessuale. Noi eterosessuali, Cruciani, sì, sì, ok? Quando abbiamo le emorroidi, con le nostre donne facciamo le cose che si possono fare. Beh, sì, certo, perché non rileva. Sì, potresti avere un po' di dolore ogni tanto, non lo fai per una questione proprio fisica, per una questione, no? Se tu hai le emorroidi, ma non è vero, dipende, ti potrebbero fare male, e dunque potresti anche essere inabile al sesso, sì, per esempio, o no? Potrei, ma quelli che hanno gli omosessuali che hanno le emorroidi, come fanno? Allora, gli omosessuali che hanno le emorroidi, come quesito, ho capito benissimo. Gli omosessuali che hanno le emorroidi, come fanno? Gli omosessuali che hanno le emorroidi, diciamo che in alcuni momenti in cui hanno le emorroidi è molto difficile che possano fare sesso. Ah, allora ci siamo che non è normale. Ma cosa non è normale? La loro condizione. No, Giovanni. Cioè, se scherza, non fa. No, non sta scherzando. Se è serio, è peggio ancora. No, è serio. Sto scherzando, non sto scherzando. No, ma allora è peggio ancora. Cioè, siccome. Allora, Cruciani, se io eterosessuale, no? Ho qualche problema. Sì, mi può dare un po' fastidio, però io l'atto lo concludo tranquillamente. Non ci ma qual è il problema? Non ho capito. Cioè, per te sono anormali perché non posso. Perché sono anormali? No, perché non con le emorroidi. No, tu stai dicendo che sono anormali. Io voglio sapere tecnicamente. Ma tecnicamente non lo so, ma chiedilo a un gay che ha le emorroidi. Ma perché me lo chiede a me? Adesso faccio un appello. Un gay. Amico, c'hai fratelli. Ma non gli chiedo quando non hanno le. Esperto di questo argomento. Scusami, Giovanni, io quando posso anche fare un appello qui a qualcuno che ci sta ascoltando, a qualche gay. Sì, ma non fanno. È importante. I gay con le emorroidi come fanno quando devono fare sesso? Come fanno? Non è un tema appassionante, ma lo posso anche aprire tranquillamente. Ma dove vuoi arrivare con questo ragionamento? Probabilmente diranno che non posso. No, io non voglio arrivare da nessuna parte. Voglio sapere tecnicamente come fanno. Va bene, d'accordo. Io ho visto mio fratello che quando aveva le emorroidi, però prima hai detto da pazzi, però operato, non operato. Io voglio sapere se fosse stato omosessuale, come avrebbe concluso l'atto? No, tu stai dicendo allora non vedi che non sono tanto normali, questo hai detto prima. No, visto come che no? Visto che la donna c'ha due, ok, quindi se una si usa l'altra, ma l'uomo ce n'ha uno. Se quello è interrotto oppure non potrà fare sesso. Non potrà fare sesso, allora? Ecco, bravo. Questa è la domanda. E allora? Tecnica. Allora? Come fanno? E allora? Non fanno. Non fanno. Non fanno, allora? Non fanno. Bravo. E dunque? È la risposta. Non fanno. No, e allora? E dunque, niente. Ti sei data tu la risposta, dunque. Non no, fanno. Ma che conclusione vuoi arrivare, Giovanni, con questa roba qua? Non ho capito. Voglio. No, io. Guarda che io. Evidentemente vuoi arrivare. Amabili, normali, perfette, cioè io non ho nessun problema, è una domanda tecnica, appunto. Ma quale domanda tecnica? Dai, non ci stare a coglionare, dai, che domanda tecnica, non dire stupidaggini. Come non avevo nessuno a cui domandarmi, tu eri l'esperto che ti seguo da anni e solo di questo sei esperto, non solo di questo, maggiormente di questo sei esperto, ho detto l'unica persona che mi può rispondere è Cruciani. Vabbè, Giovanni, ciao. Ciao. È stato trovato un diario appartenente ad una delle oggettine che si chiama Iris Berardi, la quale scrive in questo diario: ad Arcore orge e cose oscene, non mi sono fatta mancare nulla. Bah. Ciro da Napoli, vai, 800 24 00 24, vai Ciro. Pronto? Sì. Castrazione chimica per chi viene riconosciuto colpevole di aver fatto male a una minorenne. Sì, ragazzi, con sta castrazione chimica. Adesso siete tutti favorevoli, stasera pure Parenzo. Peppe, ma però, scusa, Peppe, però dimmi una cosa, no? Tu cioè, ci rompi le palle, tu, io, forza Australia. Non ho capito, molti paesi dell'Europa e soprattutto gli Stati Uniti hanno la castrazione chimica. Sì, esatto, perché esatto. Gli Stati Uniti hanno la castrazione chimica, fammi capire. Ma io sto dicendo semplicemente. Ma lo sai tu, non è solo lo stupro. Questa ragazza è stata rovinata psicologicamente per tutta la vita. Per questo c'è la galera, ci sono i danni, eccetera, eccetera. Galera, ma che vuoi fare? La punturina a questo? Vuole tu e Parenzo adesso vi siete messi a fare la punturina? No, ma ci sono tanti metodi, insomma, per fare la castrazione chimica. Ma la castrazione chimica, la punturina, c'è poco da fare. Poi ci sono anche delle pillole. Vabbè, le pillole, quello che è. Inefficace. Fatto sta che rendere, riconoscere come malato il pedofilo e lo stupratore fa sì che uno dei metodi può essere quello. E non mi sembra incivile, visto che anche gli Stati Uniti siamo passati veramente all'assurdo, cioè al fatto che a me non mi sembra così paradossale, io non è che ragiono per schemi. Vai, fermi tutti, fermi. Ma qui è tutto un casino che siamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere. La Zanzara. Tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, Ragazzi, comunque la frase del giorno è quella pronunciata da Lapo Elkan. Adesso, per carità, è amico mio, però, Lapo, ma state zitto almeno, no? Ti prego, stai zitto in alcuni casi, stai zitto. Io lo capisco che bisogna parlare ogni tanto. Sentite la frase qual è? Lapo Elkan, non è che stiamo parlando del pescivendolo sotto casa mia, del pizzicagnolo all'angolo della strada che c'è la crisi economica o del disoccupato, eccetera. Ogni mattina, un'intervista a Grazia, ogni mattina mi alzo e immagino di non avere niente, di dover ripartire da zero, altrimenti non sarei così competitivo. L'avere ti priva del fare. Ora io vorrei che voi ragionaste su queste cose qua, che sono chiaramente delle frasi anche molto belle, molto efficaci, che possono valere sicuramente per un piccolo imprenditore in difficoltà o per un piccolo imprenditore che vuole osare, eccetera eccetera. Però se le pronuncia il signor Lapo Elkan, amico mio, ti voglio bene, ma stai attento a quello che dici, non le puoi dire tu queste cose, perché non è che tu non puoi immaginare di non avere niente, perché non sarà mai così, non ti puoi trovare in questa situazione, dunque non te lo puoi nemmeno immaginare. È una bella frase, però non ti si addice, non ti si può stampare su quella bocca. Ogni mattina mi alzo e immagino di non avere niente. Io immagino anche le persone incazzate di fronte a questa frase. Sì, stavo ogni mattina mi alzo e immagino di non avere niente, di dover ripartire. Un disoccupato della Fiat. Ma sono senza arrivare al disoccupato della Fiat. Sì, a quelli io penso, ma se no. Ogni mattina mi alzo e immagino di non avere niente, di dover ripartire da zero, altrimenti non sarei così competitivo. L'avere ti priva del fare, cioè se hai la pancia troppo piena, lui vuole dire, se sei sazio, se hai in sostanza anche solo qualcosa, non arrivi da nessuna parte, perché non vuoi fare. C'è una parte di verità in quello che dice, lo può dire lui. Siamo ad alti livelli qua, Con chi eravamo? Ciro oppure Gianmarino? Non lo so, Ciro, devi concludere, che come vuoi concludere? Devo concludere, tu interrompi sempre. Amico mio, c'è la pubblicità, eccetera, vai. Ogni mattina mi alzo e vorrei avere il 10% di quello che ha l'Apo. Senti, parliamo di cose più serie. Anche lo 0,5 basterebbe. Anche lo 0,5, grande Davide, sono sempre d'accordo con te. Vuoi la castrazione chimica? Un altro mi vuole segnalare che la castrazione chimica la fanno dove? Bernardo, giusto? Dov'è che la fanno? Ho letto qui una riga di quello che vuoi dire. Anche Bernardo, dove? Io non sto dicendo, non sono contrario. Mi sorprende che lo sia Parenzo a favore. E mi sorprende pure che ci sia questa massa di gente. Allora, ragazzi, decidiamo che uno va. Se uno è malato, prende una pasticchetta per la diminuzione degli ormoni o fa una puntura. La libido, sì, della libido. È finita lì, ma non è nulla di invadito. Grazie, Ciro. Bernardo, che vuoi dire? Bernardo da Firenze. No, semplicemente appunto la castrazione chimica utilizzata con un certo successo. Ci sono studi che ne comprovano l'utilità, utilizzata in Svezia, Danimarca, Norvegia, cioè sono paesi, non è il Burundi, insomma, civilissimi. sono paesi civilissimi. Ma no, ma non ti sto dicendo che è una follia, a parte che bisogna vedere come viene praticata. Molti dicono, a prescindere dalla volontà dello stupratore, applichiamola lo stesso, no? Famogli il siringone lo stesso, dai, è così. Ma se uno è malato, no, viene certo, disposto. Però scusa, che differenza c'è tra una persona che è riconosciuta malata e ad esempio rinchiusa in un posto orribile quali erano gli ospedali psichiatrici giudiziari? Oppure che viene sottoposto dal giudice a una. Sì, a cure. Molti intendono a prescindere dal giudice. No, però la questione è proprio questa invece. Se viene considerata una pena, e quindi tu vuoi considerarla una pena, va bene. Ma non c'è dubbio. Ma è come. Scusa, sei a favore della castrazione chimica? Il sindaco di un comune che ordina un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, che cosa fa? Si impone sulla volontà di una persona che è considerata malata. Vabbè. Non c'è grande differenza, eh? A grande richiesta. E a grande richiesta torna Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Guarda oltre i monti, non ascoltatori, tiranno di accecarti. Poi voglio dire a quei due, come cos'è il leccaculo italiano, il leccaculo italiano. Due sono quei due signori che si sono allargati un po' di dietro, sai, quei due signori là. Si è ammazzato maschio, il loro capo non ha detto una parola sul Sole 24 Ore, il giorno dopo non c'è una riga di un imprenditore. Sono talmente abituati a leccare il culo ai potenti di turno che si vergogna a dire che la crisi c'è, continua a esserci, e i suoi industriali si ammazzano perché hanno i debiti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Dire che Parente è un essere abietto, guarda, è di poco. Quando dice che lui vede i cessi pubblici pieni di scritte oscene, evidentemente li frequenta, si trova nel suo habitat naturale. Padania bella e libera, guarda avanti. E poi interviene Varin contro Ciauchi. Senti Varin contro Ciauchi, il deputato del Partito Democratico musulmano. Ma cosa pensi che cazzo ci sia ogni giorno Ciauchi a parlare con Matteo Salvini? Ma te lo sei mai chiesto? Ma come mai quando Matteo Salvini è in televisione dall'altra parte c'è sempre quel negretto di Ciauchi? Che ci ha reso schiavi. Quel negretto di Ciauchi. Io non so come definire. È molto semplice, Marina. Ti spieghiamo in maniera molto. Forse non l'hai capito il perché. E ormai ci sono dei format televisivi prestabiliti. Basta mettere Salvini contro Ciauchi. Salvini contro uno che è a favore della legge Fornero. Salvini contro un Rom. Salvini contro un esponente del mondo Rom. Eccetera, eccetera, eccetera. E poi buon anno contro questo e quest'altro. Ma è talmente scontato che io mi stupisco di come ci si stupisca, cioè. No, io mi stupisco di quello che ha detto Varin. Il negretto di Ciauchi. Vabbè, è negro, però, è negretto. Cioè, lui lo dice in modo dispregiativo. È una bestia, dai, è una bestia. È una bestia, sto Varin, è una bestia, dai. Non è che per caso questo Ciauchi vuole fondare, se non l'ha già fondato, un bel partito islamico, chiaramente alleato con il Partito Democratico di cui lui sarà leader? Ripensamenti. E poi un annuncio, l'annuncio di Varin: chiuderà Radio Padania. Parenzo, aspetta. Tra una settimana spegnerà anche il ripetitore che state ascoltando e al posto di Radio Padania ascolterete Radio Popolare, ascolterete Radio 24, che è quella che probabilmente volete ascoltare visto che non aiutate Radio Padania. Fatti delle domande. Quanto è bella la tua terra. E il Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. lo Stato ha soldi soltanto per i migranti, per i gay e per le lesbiche. Questa è la riduzione alla semivarine della situazione. Ma è una cazzata, amico mio, perché che c'entra i gay e le lesbiche? Non è che dà soldi ai gay o alle lesbiche, di che stiamo parlando? A proposito di gay e lesbiche, una ragione della chiusura del Vespasiano lì di Radio Padano. No, ma le cose delle chiusure, l'importante è che non ciucci più soldi pubblici, quello sì. In alcuni casi io sono contrario a qualsiasi finanziamento pubblico di qualsiasi cosa. Dunque, se Radio Padania prende soldi pubblici, io sono contrario. Poi se qualcuno dai... andava chiusa già prima per l'incitamento assolutamente al razzismo. No, se qualcuno già prima. Se qualcuno vuole finanziare Radio Padania, io sarei contento. Una voce come Radio Padania deve comunque esistere. Deve comunque sì, io sono però con i soldi dei privati, con i soldi degli imprenditori. C'è gente che mette dei soldi, non i soldi nostri. I soldi nostri no, mai. Il potere fa. No, dicevo, a proposito di gay e lesbiche, il sottosegretario alla non so a che cosa, alla pari, che cos'è il sottosegretario, il signor Scalfarotto, le riforme, che cos'è? Vabbè. Scalfarotto ha annunciato lo sciopero della fame, se non sbaglio, lo sciopero per delle coppie, sì, per il riconoscimento. Ma perché in Italia c'è un ritardo sulla legge sulle coppie di fatto, ma caro Scalfarotto, lo sciopero della fame, amico mio, lo sciopero della fame, ma lo vogliamo riservare a cose un po' più importanti? Ma lo sciopero della fame poi per che cosa? Per un ritardo? No, è strano perché lui è al governo, ma questo è strano. Appunto, cioè in genere, si dimette dal governo, fa, si dimette dal governo, si dimette dal governo. È strano per quello, non lo strumento in sé dello sciopero della fame. Bravo, hai detto una cosa giusta, è al governo, è al governo, cioè, amico mio, dimettiti dal governo. Se pensi che il tuo governo, se uno fa una cosa così grave, cioè lo sciopero della fame, significa che siamo di fronte ad una cosa gravissima, ad una cosa, no? E allora, se fa una cosa gravissima il tuo governo di cui sei parte, o non sei capace tu, che appartiene a quel governo, peraltro omosessuale, oppure ti dimetti perché sostieni con lo sciopero della fame l'idea che il governo sia un governo di incapaci o comunque un governo che non vuole portare avanti quella cosa che tu ritieni fondamentale. Ragazzi, non si può giocare con le cazzate, non si può fare propaganda così a cazzo di cane, dai. Guarda oltre i monti, non permettere al tiranno di accecarti. Monellacci, Monellacci. La Zanzara. Dire che la Zanzara è uguale a Radio Padania. Allora andiamo a Pescara, Benedetto, vai. Benedetto, allora la cultura. Benedetto del... sia il Signore, com'è che fa? Sì, sempre, dice allora l'ex Papa. La cultura del perdonismo, tanto per restare. A proposito dell'ex Papa, hanno fatto. Risolve, aspetta, ferma un attimo, Hanno fatto un ritratto di Papa Ratzinger. Creato con 17.000 non so quanti preservativi, stupendo, per spingere la Chiesa, insomma, a sacro condom. Molti cattolici si sono indignati in America per questo ritratto di Ratzinger, ma indignati di che cosa? Innanzitutto è un ritratto di Ratzinger fatto con i preservativi semplicemente perché vogliono spingere la Chiesa, e sarebbe, ripeto, rivoluzionario, rivoluzionario se Papa Francesco un giorno uscisse fuori da Piazza San Pietro, dal balcone di Piazza San Pietro, sventolando un preservativo, magari colorato così lo si vede meglio, un bel preservativo colorato sventolato dal balcone, meraviglioso, per stoppare l'AIDS in Africa ci vuole anche il condom, il preservativo, usatelo, preservativo in mano, il Papa Francesco potrebbe. Io con tutto l'amore, ma insomma questo cattolicesimo è fuorviante, la società bisogna difendersi, il rigore del protestantesimo è meglio del perdonismo proprio all'italiano, cioè le cose vanno fatte anche con un certo rigore, la società ha bisogno anche di un po' di rigore, di regole, non è possibile. Che qui invece si riferisce, tutto, però? Con la culla del diritto italiano tutto si risolve, tutto si trova. Ma mica tanto si risolve. No, appunto, si aggira ogni ostacolo. Vabbè, allora Benedetto, dove vuoi arrivare? Scusa, al di là della filosofia, dove vuoi arrivare? La cassazione chimica è sacrosanta e minimo, e non c'è da scandalizzarsi. Non è una punizione. Io non mi scandalizzo di niente. La vendetta, non è vendetta, è semplicemente una società deve chiarire, deve mandare dei messaggi chiari. E dicevo, perciò il perdonismo in generale non va bene, occorre anche un po' di rigore. Io mi trovo bene sulle Dolomiti quando vado in vacanza, perché Perché? Realmente c'è un po' più di rigore, non voglio assolutamente c'è un po' più di modello, rigore, che vuol dire? Ma è così, c'è il freddo, c'è un po' più di freddo. No, ho capito, ma simpatico. Quando facevo vedere a mio figlio che portavano naturalmente il casco da sempre, chiaramente dico questo è. Quando invece a Pescara ho dovuto richiamare gli stessi vigili perché mi dicevano i ragazzi a scuola: oh, ma com'è che tutti quanti noi dobbiamo stare attenti, però ci sono gli zingari che naturalmente i vigili si girano la testa e non vedono, e quelli possono girare senza casco. Dico questo è gravissimo, infatti ne ho parlato col capo dei vigili che ovviamente ha detto no, ha ragione, ragionissimo da vendere. Vabbè. Voglio vabbè dire, ciao Benedetto, ciao, traffico veicolare. La Zanzara. Tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Living easy, living free. Season Pronto? Sì, pronto, buonasera. Sindaco? Sì. Sono Cruciani, salve, buonasera. Buonasera, lei... è lei che mi chiamava prima? Sì, eravamo noi. Ah, perché continuava a cadere la linea, non riuscivo a rispondere. Lei è il sindaco di Alassio, sì? Sì. Ah, ecco, sì. Perfetto, volevamo parlare un po' di questa sua ordinanza antiprofughi, chiamata così antiprofughi, sulla questione delle malattie trasmissibili, il certificato sanitario. Me la spieghi un po', scusi, come si fa a bloccare uno quando arriva in una città? Ma innanzitutto noi dobbiamo affrontare un'emergenza di persone che circolano sul nostro territorio quotidianamente, arrivano la mattina, si mettono a elemosinare, a disturbare i cittadini, i turisti e quant'altro. Sì, ma da dove vengono questi qua? Cioè in generale lei dice extracomunitari? Questi arrivano un po' da tutte le parti, arrivano da Genova, arrivano da Savona, arrivano da Sanremo, Sono regolari o sono irregolari? Alcuni sono regolari, altri sono irregolari. Allora c'è un po' di tutto. Vabbè, d'accordo, questo come in molte città, soprattutto città di mare come Alassio, dove ci sono un sacco di turisti, sì, va bene. È chiaro, però da noi, siccome viene considerata una città più ricca, c'è molto più afflusso. Si trovano dei turisti che sono addirittura, mentre stanno ancora tirando giù i bagagli dalla macchina, vengono avvicinati a queste persone. Molestati. Prego. Molestati. Magari no. Sì, noi sono stati anche articoli sui giornali di questo tipo. Cioè Alassio, lei sta dicendo, è invasa da persone che sporcano, rompono le balle, no, eccetera, eccetera. Che disturbano. E poi c'è anche un discorso di decoro urbano che noi cerchiamo di mantenere. Sì. Quindi decoro questo urbano. Vuole essere un sì, decoro no, ma urbano, giusto, cioè. Ma certo, il sindaco deve badare anche al decoro urbano. Sembra, sì, sembra urbano. Una bestemmia. Noi riferito alle persone, cerchiamo di affrontare questi problemi, per cui no, ma la questione delle malattie, il decoro urbano riferito alle persone. No, ma le malattie, questo è le malattie. Beh, non il resto. Le malattie, diciamo. Qual è il punto sulle malattie? Mi spieghi? Il punto sulle malattie è che non siamo assolutamente tranquilli che queste persone siano. E allora? Dal punto di vista sanitario. E dunque, questa ordinanza come si concretizza poi? Questa ordinanza si concretizza che la Polizia Municipale fermerà queste persone, se non saranno idonee, le verranno allontanate, se non dimostreranno di aver effettuato dei controlli sanitari, verranno allontanate. Ma è evidente che nessuna di queste persone ha il certificato sanitario in mano. Non è come che si fa? Non è che hanno l'esame del sangue in mano queste persone, è impossibile, diciamo la verità. Che vuol dire poi? Se ma non un sono... cittadino di Alassio, ad esempio, no, uno di, come si chiama? Alassese, come si chiama? Alassino. Un alassino, non è che gira ad esempio con le sue cose sanitarie, no? Magari c'ha la febbre, abbraccia per strada, il sindaco magari dice che questi qua sono più a rischio perché portano malattie, so, questi qua, no? Se un alassese ha il morbillo, ad esempio. No, ma lascia perdere il morbillo. Obbligate tutti ad Alassio a girare con un tesserino sanitario. Cioè, uno straniero è più malato, ha più malattie, portano malattie questi extracomunitari? Ma questo è da verificare. No, quello d'accordo, però adesso non ci giriamo intorno. Sindaco, non ci giriamo intorno. Lei fa, lei fa un'ordinanza in cui dice vieto di Ma non sono il primo che ha fatto questa ordinanza, No, voi fate tutto un cancan, però. Non sto facendo un cancan, sto chiedendo. L'ordinanza l'ho presa da altri comuni che l'hanno fatto e l'abbiamo adattata alle nostre esigenze. Altri geni? No, io voglio capire una cosa. Concretamente, geni, che succede? No, grazie per il genio. Vabbè, comunque, ma è una battuta. Vabbè, la ringrazio. No, non l'ho fatta io, peraltro. L'ho fatta io. Vabbè, l'ha fatta no, ma io sono curioso di capire. Io sono anche favorevole al fatto che il sindaco stia attento alla salute dei suoi cittadini. Se voi fate della polemica sterile è un conto. Se voi volete sapere qual è la motivazione è che la città è esasperata da tutta questa gente. No, ma come si aspera? Mi scusi, che ci vengono mandate quotidianamente sul territorio. Sì. Non ne possiamo più. Dobbiamo salvaguardare la tutela ambientale del territorio. Sì. Dobbiamo salvaguardare il turismo. Questa è una città turistica. Sì. E la gente è esasperata da tutto questo insieme di cose. E allora? Il governo continua a portare e farci avere altri migranti. Ieri siamo stati tutto il pomeriggio in prefettura, dove tutti i sindaci hanno seguito la linea, hanno affiancato la linea che abbiamo seguito noi. Mm. E lo stesso sul profilo sanitario verrà seguita anche dagli altri sindaci. Quindi, se poi volete fare delle polemiche, fate. No, ma non sto facendo nessuna polemica. Siamo stufi di avere delle imposizioni dal governo che ci toglie le risorse, perché il nostro comune su un bilancio di 28 milioni ci ha tolto 9 milioni e 2, quindi questa è un'esasperazione, però, e questo è un segnale esasperante di tutta la linea, però, che sindaco, noi siamo stufi di d'accordo, subire. D'accordo, voi non volete subire, non volete che vi arrivino persone, c'è difficoltà a gestire la cosa, i cittadini sono incazzati, d'accordo. Gli uomini non ci sono, il personale. Ma la questione dei nordafricani senza documenti e certificati, io questo voglio capire. Lei ha vietato l'accesso concreto, vuole vietare l'accesso a quelli che non hanno i certificati sanitari a posto. Sì. Come si fa a verificare? Cioè, arriva, adesso io lo dico. Cioè, l'importante è se non ce l'hanno. Municipale, lo fa la polizia municipale. Se non ce l'hanno, comandante la polizia municipale. Se non ce l'hanno sto certificato, gli esami del sangue. Li allontaniamo dal territorio, poi il giorno dopo sanno che se li identificheremo, si potrà identificarli, perché la maggior parte non avrà neanche un documento dietro, sì. Quelli che ce l'avranno saranno identificati e si vedrà, perché poi vengono sempre gli stessi qui. Non è che cambino tanto, cioè li vediamo molte volte, vediamo. Ma la preoccupazione qual è? Che abbiano malattie gravi, trasmissibili? Qual è il punto? Anche, certo, anche. Ci sono anche stati dei casi di scabbia a Milano recentemente, che la scabbia era anni la vostra paura più, è che questi qua portino malattie, diciamo la verità. Certo. Malattie. E dunque voi volete impedirlo dando una specie di foglio di via se non sono a posto dal punto di vista sanitario. Noi vogliamo tutelare il nostro territorio, i turisti e i cittadini. Punto. Vabbè, ma lei capisce che non può per legge, adesso no, se non è per far polemica, ma è per capire. No, ma falla la polemica. Non è che può per legge chiedere a un immigrato di girare per legge, lei, il simpatico sindaco di Alassio, il signor Canepa o Canepa, che dir si voglia, imporre ai migranti di avere il tesserino sanitario. Beh, come no? È uno perché non lo può fare lui per legge. Ma lasciamo perdere. Ma perché lascia perdere? È inapplicabile. Questo è per dire. Quando lei gira, il tesserino sanitario dietro? No. E mica sono obbligato io a portarlo. Io invece ma io non sono mica obbligato a portarlo. Io vengo ad Alassio domani, ad esempio. No, domani vado da un'altra parte. Non verrò più ad Alassio, ma magari un domani, qualora dovessi arrivare ad Alassio, vengo senza tesserino sanitario. Che mi succede? Ma lei è senza fissa dimora? Ma che gliene frega lei se io dove vivo? Magari anche sì, e mica mi può chiedere il documento. Dice, per l'ordinanza quello. Dice espressamente senza fissa dimora. Lei è senza fissa dimora? Anche sì, magari. No, ma non dire succede. Dai, allora guardi. Ma scusa, ma io non ho capito. Lei immagina la norma, è inapplicabile. Chi è senza fissa dimora? Chi è senza fissa dimora? Sì. L'ordinanza è chiara in questo. Sì, ma ho capito. Ma voi che cosa immaginate? Di prendere queste persone e magari di portarle in ospedale a fare gli esami? No, assolutamente no. No, figurati. No. E allora vabbè. Metto fuori dal comune, come se il comune fosse capisci, fosse un piccolo feudo, no? Un piccolo magari. Una piccola Australia, no? Con le mura, il mare magari, intorno, magari, le parti, i militari. Sarebbe molto meglio. Cioè mettere dei posti di blocco per non far entrare questa gente, dice lei. Delle torrette, perché non mette delle belle torrette, no? Ma io sono dalla parte un sindaco che si preoccupa. Ma un sindaco che si preoccupa. Rendete tutte le città così bellissime come nel Medioevo. Bravi, siete illuminati. Ma no, giusto, ma io non sono d'accordo. Se sostenete questo, bene, voi due. Guardi, fate tutte le città italiane, tutti i comuni con delle torrette. Vabbè, sindaco, però noi ci confrontiamo. Lei pure deve essere abituato a Canepa o Canepa. No. Non mi sento di farmi ridicolizzare da voi. Ma la no, è per chiederle. Ma che c'entra ridicolizzare? Che c'entra? Vabbè, questo è matto, dai. Walter Milano, vai Walter. Sì, buonasera, senta, volevo ritornare su un argomento discusso brevemente. Ieri sera ho fatto in una clinica milanese un esame che si chiama ecografia transrettale prostatica. Sì. Ebbene, si tratta che ti infilano nel di dietro una specie, un diametro di una sigaretta. Sì. Ecco, a questo punto io ho cacciato un urlo e una mezza bestemmia. Allora, è un esame che tu hai voluto fare, no Walter? Hai voluto fare un controllo in cui ti infilano una cosa nel culo. Era la prima volta, è stato un trauma per me. Vabbè, pazienza, l'hai voluto tu, diciamo, no? Sì, me l'ha ordinato il medico. Te l'ha ordinato il medico, l'ha voluto fare. Allora qual è il problema? Esatto, allora io ho sentito dire prima, ma i gay, l'omosessuale, ma è una persona normale, siamo tutti... Io mi domando, ditemelo voi, come un omosessuale... Invece di una sondina il diametro di una sigaretta prende una sonda di 4-5 cm di diametro, mi dite, e magari lunga 20 cm, ditemi come fa a essere normale. Questo è un punto, è uno dei tanti punti, poi gli altri li lascio ai letterati, ai poeti, ai filosofi. No, ma scusi, il mio punto di vista è questo. Il suo punto di vista qual è? Perché non ho capito bene. Cioè, tu dovete, se ti ha fatto male un affare di pochi centimetri, esatto, no? Pensa all'omosessuale che ne prende uno, diciamo, un po' più spesso. Esatto, no? Esatto. Tu ridi, amico mio, ma c'è a chi piace? C'è a chi piace? Chi piace? Ma come fa a essere normale se gli piace? 4 centimetri, anche 5 ho sentito dire. Beh, adesso voglio dire, su questo ci sono varie misure. Posso dire quello, ma questo è un punto di partenza, un gradino. Poi il resto. Poi che c'è il resto? Che c'è sul resto, scusa? Il resto, non so, approfondite, sentite quello libro che dice che c'è chi paone, dice che eccetera eccetera, e quelli lascio alle persone colte eccetera. Questo è il mio modesto parere. Il tuo modesto parere è la cosa più interessante, diciamo, la più interessante, cioè, come per si me, fa per me, perché per mi te, sono perché... fatto quattro risate pensando ieri sera, ecco, tutto lì. Arrivederci. Contro le leggi di Dio va all'inferno dritto. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Tutti dritti, Radio 24, tutti sulla attenti. Cruciani fa una domanda seria. Vai Cruciani. Ragazzi, non ci potete credere, il mitologico, almeno per noi, Salvo Mandarà. Parenzo, Salvo Mandarà, che sarebbe, sarebbe interessante sentire sulla crisi greca, sui criminali della Banca Centrale Europea, eccetera, eccetera. Il mitologico Salvo Mandarà ha intervistato. Non hai idea di chi ha intervistato il mitologico Salvo Mandarà? Draghi. Draghi, ma ti pare Draghi va a Cina, a Salvo 5.0? No, ragazzo, pensavo si lo avesse Dai. Beccato da qualche no, parte. No, ha intervistato Sara Tommasi, ma un'intervista di 40 minuti sul signoraggio bancario. Ah, però. Una roba che proprio fa esplodere l'audience. Però all'interno di questa intervista c'è anche una parte, come dire, di descrizione dello stato mentale, cosa che interessa molto il sottoscritto, non solo il sottoscritto, anche la Zanzara e tutti quanti, lo stato mentale della signora Sara Tommasi. Innanzitutto ti voglio fare una domanda molto molto semplice e diretta. Come stai? Bene, tutto bene. È passato, diciamo, il momento in cui stavo non tanto in forma, adesso sto tutto alla grande, insomma. Poi a un certo punto c'era scritto esclusiva, ma basta esclusiva. Che c'è il telefono, la chiami, mica un problema. Esclusiva, Sara Tommasi, dai. Io ho visto il tuo video in cui dichiaravi ufficialmente che questo matrimonio di cui tutti parlavano, addirittura anche quando io ho annunciato questa intervista, dici come Salvo, ma se si doveva sposare con Dupré, con Dupré, ecco, non ti sposi con Dupré, questo è sicuro, confermato, ok. Dupré, amico grandi mio, inchieste, le grandi inchieste di Mandarà, vabbè. Ma è con noi, altro che Mandanà, un mito, una leggenda della canzone italiana. Abbiamo scoperto che è addirittura vegetariano, forse anche vegano. C'è stata una piccola polemica dalle parti sue in Veneto per un concerto, ma insomma subito chiarita. Red Canzian, buonasera. Ciao ragazzi, come state? Ciao Red, come stai? Ma bene, ma che bello sentirti. Allora, Red Canzian, come sapete, i Pooh, inutile che ve lo dico. Dov'è che dovevi fare il concerto? Anzi, dov'è che farai il concerto, Red? No, lo farò il 13 di luglio a San Vendemiano, vicino a Conegliano. Ma che è successo là? Che tu hai detto, no, non hai detto ho io il maiale, diciamolo subito. No, ma figurati, voglio dire, credo di aver dimostrato in questi anni il mio modo di vivere e di intendere le cose. Io non sono mai stato uno che impone un aggressivo, soprattutto un iperdemocratico. I Pooh non sarebbero rimasti insieme 50 anni se non ci fosse stata democrazia e rispetto. Però ti sei messo d'accordo per un menù vegetariano? Sì. No, ho detto, visto che è una serata col mio concerto, sarebbe bellissimo chiamare questi cuochi vegani e far gustare alla gente una cosa diversa, perché è nell'incontro dei pensieri diversi, secondo me. No, ma questo va benissimo. Sai qual è il punto, Red? Il punto è che i vegani spesso tu sicuramente no, tu io non so nemmeno o vegetariano, io non so nemmeno se lui è vegano. Io sono vegano, sono integralisti purtroppo, lo so. Ma non solo sono integralisti, pensano che noi che mangiamo carne, che a me piace mangiare la carne, siamo degli assassini, tu capisci, che mi danno dell'assassino semplicemente perché sono a favore della caccia, perché sono a favore del palio di Siena, perché sono a favore della carne. Ma io ti devo far ascoltare quello che parlano di olocausto animale. L'altro giorno abbiamo pizzicato la Isabella Santacroce, una scrittrice, che diceva: Renzo, tu inginocchiati, sei il nulla. Io non sono così. Cioè, così tu pensi drastico, che chi mangia carne è comunque un assassino o no? No, io penso che ognuno può fare le sue scelte. Credo che mangiare la carne non faccia bene, ma non lo dico io che suono il basso coi Pooh, lo dice il professor Veronesi, lo dice della gente molto più preparata di me su questi argomenti. Ma che non faccia bene fisicamente, vabbè, può essere anche. Capito? Credo che l'allevamento della carne sia un controsenso economico, perché servono 23 kg di legumi per fare un chilo di carne, servono 100.000 litri di acqua. Cioè per il mondo andrebbe meglio, il mondo andrebbe meglio senza insomma, mangiare la carne. Ma voglio dire, quantomeno riuscire, tanto i cambiamenti radicali a oggi non si fanno più in un momento, in un mondo così globalizzato, però riuscire a ridurre, avere un indirizzo di vita migliore. Sai, cioè, i figli cresciuti dai vegani, secondo te, stanno benissimo, ma stanno meglio degli altri? Paola Maugeri, che tu conosci, sì, come no, certo, collega. La conosco. Certo. Allora, Paola ha allevato suo figlio fin da piccolo vegano, è considerato un genio a scuola. Paola, forse per quello, 10 centimetri più alto degli altri, non ha mai fatto un vaccino, non ha mai avuto una malattia, non ha mai avuto niente. Per cui voglio dire, cioè, secondo te, crescono meglio e sono anche più intelligenti, questo mi stai raccontando? Beh, sicuramente mangiare un buon frutto al mattino o come merendina a scuola, piuttosto che mangiare una brioche o una delle tante schifezze, ti fa andare meglio il cervello. Ma ci fa stare meglio in generale, io e credo, dunque no? Anche il cervello, dici tu. Ma tu, mi dici la tua dieta quotidiana, com'è organizzata? Ma stamattina ho mangiato una banana e un ciotolone di mirtilli, buonissimo. Stamattina, poi a pranzo? Perché neanche il latte beve, capito? No. Neanche i formaggi. Io il latte non lo bevo da quando sono bambino, perché proprio non mi è mai piaciuto. D'altronde non sono io che ho inventato questa cosa. Ippocrate, qualche anno prima che nascesse Gesù, diceva che nessuna specie animale deve bere il latte di un'altra specie animale, ma soprattutto che non deve bere il latte dopo lo svezzamento. E le donne vegane come fanno quando fanno sesso? Ah, questo non lo so, perché mia moglie è onnivora. Ah, tua moglie è onnivora? Tu stai con una onnivora? Sì, ma è lì bello il confronto. No, per carità, questo ti fa onore, perché sei vegano ma non oltranzista. Diglielo allora a quei vegani che ci rompono le scatole che basta essere oltranzisti, dai. Credimi, io sono stato attaccato perché mi sono tirato il ghiaccio in testa per quella cosa, per la ricerca sulla SLA, perché dicevano che nella ricerca sulla SLA si usano le cavie animali. Ho fatto Teleton e mi hanno rifatto il culo come pazzo perché dicevano che... Vabbè, comunque ragazzi, la ricerca sugli animali va fatta, dai, o no? Cioè io, ma guarda, ti dico, io non ho la presunzione di voler sapere tutto. Io credo però che di fronte, sai, è facile parlare, cioè, va abolita la ricerca sugli animali, secondo te? No, ti dico, è facile parlare finché non è un malato in casa, ma io ho una mia amica di 40 anni con la mucoviscillosi che doveva morire a 20 ed è viva grazie alle medicine fatte con la ricerca, purtroppo anche sugli animali. Nessuno di noi vorrebbe uccidere un animale, ma se devo scegliere fra un topolino e un bambino, io non ho dubbi. Ah, meno male. Dunque, per te gli esseri umani non sono uguali agli animali, perché molti dicono sono esattamente la stessa cosa. Sono uguali a livello. Cioè, una zanzara. Una zanzara non può essere uguale a un essere umano. Dai, su. Oggi una persona in aereo mi diceva: mi raccomando, non uccidere le zanzare, una mia amica. No, non uccidere le zanzare. Ma un cazzo. Io mi fermo perché voglio stare sempre dentro dei parametri di logica. Io ti dico: abbiamo un cane a casa, io e mia moglie, che è stato operato 5 volte ed è un figlio, capito? Alan Morrissey impedisce alle persone di mangiare la carne dentro i suoi concerti, poi non si capisce come fai, è un pazzo secondo te? No, non è un pazzo, ma è una forzatura che io non mi potrei permettere di fare, perché fuori da qualsiasi palasport dove io ho fatto i concerti mangiavano qualsiasi cosa. Io per il concerto del 13 a San Velimiano, siccome è uno spazio, un impianto sportivo molto grande, e all'interno di questo ogni sera fanno queste serate anche. Ma scusa, secondo te gli animali sono, per esempio, una volta tu hai detto, mi sembra, che i maiali sono bravi con i videogiochi, non ho capito. No, il maiale ha l'intelligenza di un bambino, è stato provato dall'intelligenza di un bambino di 3 anni. Ma io, credimi, non potrei mai mangiare un animale perché ho grande rispetto. Come ha l'intelligenza di un bambino di 3 anni? Per gli animali. Sì, è molto più intelligente del cane il maiale. Sì, questo è vero. No, questo sì. Ma questo io quando ero. Senti, io quando e ero anche le galline? Le galline sono un animale sociale, sì, e addirittura rispettano il tempo di andare a beccare il becchime a seconda di una loro, così, insomma, chiamiamola ordine gerarchico. Io ho un ricordo terribile: quando ero bambino i contadini vicino a casa ammazzavano il maiale e questo maiale lo ammazzavano al pomeriggio, al primo del pomeriggio cominciava a urlare al mattino perché aveva capito perfettamente cosa stava per succedere, e quelle urla io le ho ancora nelle orecchie, per cui ti dico io, ma è una scelta mia, capisci? Cioè, io ho deciso non mangiare animali e nulla che provenga dagli animali, e sono felice così. Beh, secondo te no, ma la cosa che voglio capire è, secondo te uno è più intelligente, cioè funziona meglio tutto nella vita in questo modo? Cioè, nella vita io non dico che uno è più intelligente, io dico che se uno fa questa scelta, sicuramente è una scelta salutistica e anche etica. Vabbè. Siccome a me piace andare a sedermi a tavola e dire a mia moglie cosa mangiamo e non chi mangiamo, io sto bene così. Va bene, Red, grazie, un abbraccio, ciao. Ragazzi, grazie a voi, ciao, grande Red, ciao. Allora, andiamo a Verona, Luigi, vai. Eccoci qua, buonasera a tutti, a Parenzo e a te, Giuseppe. Senti, io volevo parlare un po' della questione dell'omosessualità. Sicuramente c'è tanta confusione. Gente che dice che non è naturale, gente che dice che è una malattia, eccetera. Secondo me tutto ciò che la natura manifesta è naturale. Uno dovrebbe chiedersi: ma perché una tot percentuale della popolazione manifesta fin da bambino queste tendenze omosessuali rispetto agli altri, alla maggioranza? Sì, ma certo, c'è assoluta naturalezza. No. È assolutamente naturale. Ma il motivo qual è? Perché uno potrebbe dire: ma l'omosessualità non permetterebbe la riproduzione, quindi se tutti fossero così l'umanità finirebbe. Ma la riproduzione non è mica scolpita nella pietra, cioè uno può anche non fare figli, cioè non per questo sei innaturale. Cioè, ci sono quelli che hanno delle malattie. Ma al di là di questo, uno può anche scegliere di non farli, è una cosa naturale anche scegliere di non farli. C'è libertà. Ma uno non sceglie di non essere omosessuale se ha questa tendenza. E volevo spiegare, secondo me, il motivo per cui la natura ha previsto l'omosessualità. E perché? Perché? Per limitare le nascite. Cioè, nel senso. No, ma adesso non credo, non è che per limitare le nascite ha previsto l'omosessualità. Adesso, a parte che gli omosessuali potrebbero tranquillamente mettere incinta le donne lo stesso, non è che. Ma non hanno la tendenza. Se noi fossimo ermafroditi e tu non avessi una tendenza bisessuale, non metteresti incinta una donna? Vabbè, ho capito. Per limitare le nascite hanno Gesù Cristo, cioè Dio ha inventato l'omosessualità. No, non parliamo di Dio. Non è vabbè, la natura, quello che è stato creato l'omosessuale. Per esempio, ti faccio un altro esempio per capirci meglio questo scherzo. L'aviazione o la sommergibilistica è qualcosa di innaturale. L'abbiamo inventato noi come uomini. Infatti, nel momento che l'apparecchio aereo non funziona, la persona sopra, 99% muore. O viceversa, se un sommergibile fa acqua, perché non è il nostro ambiente, né volare è quello degli uccelli o di andare sott'acqua è quello dei pesci. Vabbè. Capito? Ciao, ciao, dire Beatrice. Apparenzo. Di qualcosa Apparenzo, dai. Questo è un altro argomento, però lo sento sempre, dimmi. Che bisogna dirlo. Caro Apparenzo. Dimmi. Tu sei un paladino, io ti ammiro contro ogni forma di razzismo, contro i padani, contro vabbè, allora... e soprattutto il problema è un altro però, che tu dovresti disconoscere la tua etnia. Perché? Etnia. Già su questo certo. Uno dovrebbe discutere. Vabbè, ma lo sai quello che voleva intendere. Un attimo. Non era offensivo, voleva intendere un'altra cosa. Dai, allora. Vabbè, è sbagliato, non fare il professore. Dai, allora Luigi. Scusate, ma non va bene etnia, è chiaro che non va bene etnia. Hai ragione, sto dicendo cose troppo intelligenti. Mi rifaccio subito, guadagno un buon bonus di. Vai, allora. Cazzo, vaffanculo, porca puttana. Ma che c'entra? Ho guadagnato un minuto di. Ma non dire stronzate, dai Luigi, dai, forza. No, non dire... sto dicendo stronzate. Ma hai detto una stupidaggine etnia, che volevi dire? Mi fai finire, porca zozza. Dai, dimmi. Allora, c'è un'etnia, e poi diciamo qual è, che è più razzista del Ku Klux Klan, più razzista dei nazisti ariani, più nazista dei padani che vorrebbero bruciare i rom, chi eccetera. Chi sarebbero? I sionisti che conducono l'unificazione del paese di Israele. Ma l'unificazione, certo, veramente non c'è bisogno di unificazione. Che conducono l'unificazione. Bene, ho detto una cazzata. Questa frase è inconcludente. Beh, sì. No, voleva dire semplicemente che lo Stato di Israele è uno Stato guidato. Vabbè, chi è che sta facendo lì le operazioni politiche? Non è che lo fa il sionismo, lo fa lo Stato di Israele. La mentalità sionista. Ecco, la mentalità sionista è la più razzista di tutte, giusto? Ma perché è scritto nella Bibbia. Nella Bibbia c'è scritto, ti dico anche Deuteronomio capitolo 15 versetto 1-8, non so del Timone di Geova, però è una cosa che mi ha interessato. Che c'è scritto? Che l'etnia ebraica, seguendo le leggi di Mosè, dettate da Dio, avrà la supremazia su tutte le nazioni. Le nazioni non domineranno gli ebrei, ma gli ebrei domineranno le nazioni. Non sto parlando dei protocolli di Sabio, quelli sono taroccamenti, eccetera. Sto vabbè, parlando ho capito. Della Bibbia. Grazie, Beatrice Padova. Beatrice da Padova. Vabbè, questo sostiene che lo Stato è più razzista è lo Stato israeliano. Vabbè, secondo me è una follia, e questo lo pensa. Beatrice, vai. Dimmi, veloce, vai. Tanto Padania libera intanto. No, volevo riprendere un attimo il discorso della. No, fermo un attimo, ferma. Domani ti chiamo. Fermo, voglio sentire assolutamente Simone da Firenze, perché è già da un po' di tempo che era con noi. Scusami, Beatrice, ma c'era prima Simone. Se no si incazza. Vai, Simone, dimmi. No, ciao, sono Simone, sono gay. Sì. Niente, come ascolto tutte le sere la vostra trasmissione, sentivo Rafa questa sera, il signore che parlava di Android, di queste cose qui. A me viene da ridere. Ma che si può fare con le emorroidi? Non ho capito. Scusa. No, lui dice con le emorroidi non si può fare niente se uno è gay. Invece non è vero, perché ovviamente lui ragiona con. Da eterosessuale. Sì, è da eterosessuale, perché soprattutto in un rapporto fra due persone, diciamo un rapporto consolidato, bisogna dare un avere reciproco. Quindi. Tra due uomini, se uno dovesse avere le emorroidi, farà quell'altro. Certo, se hanno le emorroidi tutte e due è un problema. Quello sì, certo, ma poi ci sono rapporti orali, ci sono. Vabbè, quello lo sapevamo. Insomma. No, lo so, però. Per rispondere all'ascoltatore, tu dici si possono fare un sacco di cose. Vabbè, ma non c'era bisogno di rispondere a una stronzata del genere. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Ma chi hai detto che il casteggio non è serietà? E Pulcinella, te lo ricordi, diceva casteggiando. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Radio 24, la passione si sente.